alle tante conseguenze nefaste di quel che sta succedendo oggi in Palestina, va aggiunto, e non se ne sentiva proprio il bisogno, il rischio di un ritorno di fiamma dell'antisemitismo in Europa. E non importa se si tratta di un'eventualità tutto sommato remota, legata a episodi isolati e ingigantita ad arte semmai da quanti, come sostenitori occulti o palesi dell'attuale governo israeliano, sono avvezzi a sfruttare spregiudicatamente i sensi di colpa che la nostra coscienza collettiva prova non senza motivo nei riguardi dell'ebraismo. La storia ci insegna che l'antisemitismo è una di quelle infezioni che dilagano anche sul terreno che più ne sembrava immune, e quando cominciano i roghi delle sinagoghe, come in questi giorni in Francia e nel Belgio, vuol dire che il livello di guardia è stato nonché raggiunto, largamente superato. Che quel rischio sia reale, d'altronde, lo dimostra il fatto stesso che tanti di noi lo avvertono nella propria coscienza. E siamo tutti convinti in astratto che simpatizzare per la causa palestinese e detestare di cuore il governo Sharon è un'opzione politica affatto legittima, condivisa persino da un certo numero piccolo ma non irrilevante di cittadini ebrei di Israele, ma di fronte alle reazioni che suscitano oggi l'arroganza e la prepotenza di quel governo che reagisce al terrorismo con la tecnica della rappresaglia sulla popolazione civile, che non sarà la stessa cosa ma non è neanche quella gran differenza, e per di più ne approfitta per cambiare unilateralmente le carte in tavola, trattati o non trattati, in molti di noi nasce una specie di paura improvvisa e temiamo che la nostra reazione sia viziata da una forma di antisemitismo latente. Ci chiediamo se il fastidio che proviamo di fronte a uno Stato sul cui rispetto per i diritti umani e sulla cui sincerità democratica ci sembra ci sia molto da ridire non possa essere per avventura una subdola manifestazione di quell'antico esecrabile vizio. È un rovello che oggi tormenta una quantità di persone per bene per la soddisfazione dei tanti tromboni che problemi del genere non se ne pongono, ma sono sempre pronti a denunciare le opinioni e le iniziative degli altri come esempi, come si dice, di pacifismo a senso unico. I problemi di coscienza, naturalmente, a senso unico non sono mai. E se è sempre giusto cercare di fare un po' di consapevolezza dentro di sé, specialmente se si è cresciuto in un paese come il nostro, afflitto per secoli dall'egemonia culturale della Chiesa Cattolica, che in tema di rapporti con l'ebraismo ha le sue belle responsabilità, bisogna anche sforzarsi di reagire a quelli che finiscono per diventare dei veri e propri ricatti ideologici. In fondo, le ideologie, quella dell'antisemitismo compresa, sono state elaborate più per occultare i termini dei problemi che per chiarirli. Provate a rileggere nella Storia notturna di Carlo Ginzburg il capitolo su come fu inventata nella Francia del XIV secolo la cosiddetta congiura dei lebrosi, per definire e giustificare un progetto persecutorio che sarebbe stato ripetuto più volte ai danni di molti altri soggetti, a partire appunto dagli ebrei. Quando si è decisi a fare qualcosa non ci vuol molto per trovare delle giustificazioni, ma queste giustificazioni non si identificano in necessità con le motivazioni effettive. E oggi, di fronte a quegli episodi sconvolgenti e vergognosi, il dovere di tutti è quello di cercare di capirne appunto i motivi, di chiedersi per che cosa esattamente si sta combattendo da una parte e dall'altra. Io sbaglierò, ma personalmente ho l'impressione che in quella tragedia l'antisemitismo non c'entri davvero un granché. In Palestina non è in corso né una guerra di razza, per quel che può significare in quel contesto il termine razza, né una guerra di civiltà, con le virgolette mi raccomando, né tantomeno una guerra di religione. Proviamo a lasciare perdere per una volta le rivendicazioni di valore degli uni e degli altri, a mettere tra parentesi l'eterno dibattito sulle opposte ragioni storiche delle due parti. E tanto sappiamo benissimo tutti che entrambi ormai hanno diritto di vivere su quella terra, anche gli israeliani che, quali che fossero le loro motivazioni, ci sono giunti come coloni e l'hanno trasformata con il loro lavoro. Ma questo non li autorizza naturalmente a creare uno Stato fondato in gran parte sulla discriminazione, a negare i diritti degli altri e a riservarsi con la forza la parte migliore della terra e praticamente tutto il potere, perché è sulla terra, sul potere e sui diritti e non su altro che laggiù ci si scanna. È un conflitto quello che contrappone israeliani e palestinesi, che non è la stessa cosa, vale la pena di continuare a ripeterlo, che dire arabi e ebrei, è un conflitto molto laico e forse per questo molto brutale. come molto laica e anche abbastanza brutale, l'unica soluzione possibile, che in quelle poche miglia di territorio gli uni e gli altri imparino prima o poi a convivere da bravi fratelli e su un piede di parità. E chi non vuole rassegnarsi a questa difficile ma ragionevole prospettiva, che può sembrare assurda come tutte le utopie, ma come capita spesso alle utopie rappresenta l'unica via percorribile, chi non vuole rassegnarci non ha alcun diritto di protestare se viene giudicato per le sue azioni.